Evita Peron. Su questa donna sono stati scritti fiumi di parole. La sua vita è stata addirittura trasformata in un musical, nel quale viene assolutamente minimizzato il suo personale impegno politico, come da copione patriarcale, per dare invece risalto al supposto grande amore tra lei e il marito, Juan Peron, amore che forse non era poi così vero. La Scuola delle Donne vuole offrire la sua chiave di lettura femminina. Evita fu forse tolta di mezzo perché il popolo la voleva come presidente? Era lei che il popolo amava, lei di cui si fidava. Senza di lei però non sarebbe stato nulla. E questo il regime patriarcale non poteva sopportarlo. Eva Maria Ibarguren Duarte de Perón, Evita, la Madonna dei Descamisados, nacque all'inizio del Novecento nella provincia di Buenos Aires, quinta figlia illegittima di un uomo che aveva due famiglie. Le origini popolari furono la molla che la spinse a identificarsi sempre con la gente umile e lavoratrice dell'Argentina. Evita, figlia della miseria, fu una donna che l'impegno sociale e politico trasformò in attivista e santa. Salda, incisiva, dal tono di voce deciso e senza esitazioni, si affacciava al balcone del Palazzo Nazionale, muovendo con gratitudine le mani in segno di saluto e inviando baci a coloro che, grazie a lei, avevano sposato la causa peronista, che era la sua stessa causa. Una causa sentita, profonda, un corpo e una mente che si offrirono senza riserve per riscattare la dignità della sua gente, quel popolo di cui anche lei sentiva di far parte, nonostante fosse divenuta la prima donna di Argentina e tra le più amate del mondo. Il marito, Juan Perón, si servì della sua persona per avere ciò che da solo non riusciva a ottenere: empatia, amore e sostegno dalla classe lavoratrice dei cui diritti Evita si era fatta paladina. Naturalmente combatté per il voto alle donne. In un famoso discorso Evita dichiarò: «La donna deve affermare la sua azione, la donna deve scegliere. La donna, molla morale di una casa, deve prendere il suo posto nel complesso ingranaggio sociale di un popolo. Lo richiede la nuova necessità di organizzarsi in gruppi più estesi e rimodernati. Lo esige, in sintesi, la trasformazione del concetto di donna, che è andata aumentando con sacrificio il numero dei suoi doveri, senza chiedere il minimo dei suoi diritti. Ora che ci siamo conosciute meglio, che siamo unite per il paese in un blocco solidale, la moglie del presidente della Repubblica che vi parla non è che un'argentina, la compagnera Evita, che sta lottando per la rivendicazione di milioni di donne ingiustamente sottratte a quello che ha più valore, la volontà di scegliere. Il diritto di voto femminino non consiste solo nel depositare la cartella nell'urna, consiste essenzialmente nell'elevare la donna alla categoria di vera orientatrice della coscienza nazionale. È ben chiaro per Evita quali sono i punti focali per rivoluzionare un paese: essere al fianco degli ultimi, perché sapranno essere sempre fedeli, tenere viva la fiamma del cuore attraverso la carne, i nervi. Tutto il suo corpo è coinvolto nel suo amore per il popolo. Il 23 settembre del 1947, lei, rappresentante delle donne argentine, le informa di aver ricevuto per mano del governo della nazione la legge che consacra i loro diritti civili. E 4 anni dopo, quelle donne andranno al voto per la prima volta. Evita è giovane, ma tenace. Fonda il Partito Peronista delle Donne e crea la Fondazione Eva Perón, attraverso la quale riesce a dare sostegno monetario ai poveri e alle ragazze madri e borse di studio ai loro figli, a costruire case per gli anziani, ospedali, orfanotrofi e scuole nelle aree disagiate del paese. Gli stessi lavoratori offrirono alla sua fondazione un giorno di paga, sicuri che il loro contributo sarebbe stato usato per il bene del paese. Grazie a lei, un paese guidato da un militare dittatore diventò il paese più democratico del Sud America. E in politica riuscì ad avere ragione di quella oligarchia ammanicata con il potere economico degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, che sfruttava le grandi ricchezze della sua terra e della sua gente, che lei non esitò a denunciare a voce tonante dal balcone della Casa Rosada. Durante uno dei suoi infiammati discorsi pronunciò le parole che potrebbero essere state dietro la sua morte. «Voi sapete», urlò, che l'oligarchia, i mediocri, coloro che vendono la patria, non sono ancora sconfitti e dalle loro sporche tane attentano ancora al popolo e alla sovranità nazionale. A quelli che hanno relegato in secondo piano le donne non piace che Eva Perón si sia dedicata al popolo argentino e che invece di partecipare alle loro feste oligarchiche abbia consacrato i giorni e le notti a mitigare dolori e a disinfettare ferite. La classe dominante e i militari fecero pressione su Perón perché non la nominasse vicepresidente del suo secondo mandato. Ma il popolo gridava il suo nome, non quello di Juan Perón. La sua gente voleva lei come presidente, la donna che aveva fatto delle sue umili origini il suo vanto e la sua bandiera. Evita era diventata la madre dell'Argentina, il capo spirituale della nazione e incitava il popolo alla rivoluzione. E proprio nella parte del corpo che custodisce la vita, l'utero, la sua lotta diventò dolore. L'utero di Evita si ammalò. Seguirono anni di sofferenza. Le operazioni chirurgiche e la perdita di peso la costrinsero a farsi sorreggere durante le uscite pubbliche. E questo creò una falla nella sua volontà di ferro, attraverso la quale il sistema patriarcale si incuneò per demolire colei che con il suo solo carisma riusciva a minare privilegi e ricchezze della classe dominante. La malattia offrì forse all'oligarchia argentina e a Perón il destro per rendere innocua una donna la cui popolarità stava crescendo pericolosamente. Con la scusa di renderla insensibile al dolore provocato dal tumore all'utero, Perón decise, senza il consenso di lei, che Evita fosse lobotomizzata. Dalla lobotomia uscì devastata in uno stato vegetativo, smise di nutrirsi e morì poche settimane dopo. Sulla sua morte fu imposto il segreto di Stato, così che solo di recente, nel 2011, analizzando i raggi X del cranio di Eva Perón, si è scoperta la violenza che le fu inferta negli ultimi mesi di vita. La lobotomia troncava alcuni collegamenti nel cervello per interrompere le risposte emozionali e si usava in quegli anni per rendere innocui criminali violenti o psicopatici. Così, la donna indomita, rivoluzionaria, che sapeva parlare con il cuore al suo popolo di cui era diventata madre e che lo incitava costantemente alla rivolta, fu resa inoffensiva. I privilegi della classe dominante erano al sicuro e così pure il potere patriarcale nelle mani di Perón. Tutto ciò che lei aveva costruito per il popolo con la sua fondazione fu brutalmente distrutto. Aveva 33 anni e vita. Quando, vegliata dalla presenza amorevole della mamma e delle sorelle, lasciò il corpo, mentre migliaia di persone pregavano notte e giorno sotto le sue finestre. Impossibile non pensare a un'altra regina molto amata dal popolo e morta prematuramente. Lady Diana Spencer ne aveva solo tre di più. Evita fu una regina, anche se veniva dal popolo. Il mio nome, aveva detto, è diventato il grido di riconoscimento delle donne di tutto il mondo. È giunto il momento di avere gli stessi riconoscimenti degli uomini. Impossibile non riconoscere quella stessa dichiarazione di libertà che aveva posseduto il cuore di altre venerabili antenate sudamericane alle quali ci ispiriamo. Gabriela Mistral, Violeta Parra, Anita Ribeiro da Silva Garibaldi.